sono. Oh Nathalie, avevo il volume quasi a zero. E poi devo segnare, non sentivo la radio, era per quello. Sono tornato adesso, ho fatto una spesuccia da Lidl. E mamma ha voluto questa farina per i ceci, sarebbe tipo fainé, no? Adesso la metto al fornetto, l'abbiamo già provata, è buonina, certo non è come la fainé di Ciccio, ma ci accontentiamo. Quella bisogna saperla fare. Comunque io una volta l'ho fatta in pasticceria, mi è tutta fina, croccante, bella, ma non so quanto era buona. Ma l'hai fatta in casa tu, tipo prendendo la farina, il ceci, l'olio, proprio auto, già capito, fatta in casa. E allora, l'ho messa in una di quelle che ci avevamo in pasticceria e l'ho messa in forno e ha funzionato, è uscita buona, anche in casa si può fare. Seria, ma magari un giorno mi dai la ricetta, mi dici come si fa, provo a farla in casa, chissà che sia commestibile, chissà cosa ne esce. Vabbè, adesso vado a infornare Nathalie, in senso buono, buono, vabbè, già capito. Vai, inforra, inforra. Ciao Nathalie, ciao, e poi mangiamo direttamente con mamma, quindi poi ci sentiremo se capita, dai. Buona serata. Altrettanto, ciao.